Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere. È diventato un modo di dire, in realtà è il titolo di un libro di John Gray, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più autorevoli esperti nel campo della psicologia relazionale. Un libro che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, è stato tradotto in moltissime lingue, restando, pensate, per oltre 6 anni sulla lista dei bestseller del New York Times. Il segreto di questo straordinario successo sta in parte nel titolo, ma anche nel concetto che lo stesso John Gray esprime così. Tanto tempo fa, i marziani e le venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla Terra e furono colti da amnesia. Si dimenticarono di provenire da pianeti diversi. E da qui sono iniziati i guai, diciamo così. Facciamocene una ragione, siamo diversi. È bello proprio quello, no? Giornata tipo dell'uomo, sveglia ore 7, si prepara per andare al lavoro, va al lavoro, lavora, torna a casa e si lamenta del lavoro. Giornata tipo della donna, sveglia ore 7, lava, stira, stende, cucina, annaffia le piante, pure quelle finte, spolvera, rammenta e per eliminare l'ultimo senso di colpa dà una piallata al parquet. E siamo ancora alle 7:10. Va al lavoro, lavora, esce dal lavoro e va al corso di decoupage. Prepara la cena, mette a letto i bambini, va dal marito e ricomincia con le domande inutili. Amore, andiamo di là a farci le coccole. E lui che cosa risponde? Sono stanco. Stanco? E non è che ti ho chiesto di fare un trasloco, solo un muscolo devi muovere. Non c'è bisogno però di tante parole, perché venusiane e marziani si riconoscono ad occhio. In linea con noi la professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano, responsabile della sezione di medicina dell'esercizio ad Humanitas. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, buongiorno a voi. I marziani, professoressa Lucini, dal punto di vista fisico si riconoscono? E certo, si riconoscono perché di solito hanno tanti muscoli o dovrebbero avere tanti muscoli, sono belli alti e hanno la capacità di fare tantissime cose. E quindi hanno una struttura, diciamo così, abbastanza potente, abbastanza grande. Che li metterebbe in condizione potenzialmente di fare molto. Assolutamente sì. E di non essere subito stanchi la sera. Brava, volevo dirlo io, però non ho usato. Passiamo invece alle venusiane. Ma sicuramente le venusiane hanno proprio un fisico completamente diverso, e anche se strutturalmente sono fatte nella stessa maniera, potremmo dire, in realtà sono molto diversi. Questo perché la massa muscolare è minore nella donna rispetto all'uomo, di conseguenza il tessuto adiposo, la massa grassa è un pochettino più importante, più presente. Come struttura sono più piccole, non solo sono più basse, ma anche i muscoli sono più piccoli rispetto degli uomini. Poi ci sono sempre le eccezioni, ma certo, la regola sostanzialmente è questa. Professoressa, ma le differenze non finiscono qui? Ci sono anche delle, chiamiamole, sottotipologie? D'altronde il mondo è bello perché vario. Assolutamente sì, lo sanno tutti, le mele e le pere sono diverse. Nelle venusiane potremmo dire questa è una delle differenze particolari, a dire che da un punto di vista medico ci possono essere donne dove il tessuto adiposo viene depositato prevalentemente a livello sottocutaneo, tipico i fianchi, i glutei, le famose pere, viceversa altre hanno una localizzazione un pochettino più maschile, potremmo dire, un pochettino più a mela, cioè intorno all'addome. Non è solo questo, c'è ancora qualche cosa in più che noi vediamo in giro. Ci sono le cosiddette donne che chiamiamo delle clessidre, cioè spalle belle larghe, vita stretta e fianco un pochettino più largo. Seno generoso, un po' alla Jessica Rabbit. Esattamente, esattamente. E invece poi rettangoli o stuzzicadenti, dipende come li vogliamo chiamare, ma ci sono anche i rettangoli belli grossi, Allora, intanto, venusiane, quindi amiche di essere benessere, pensate alla vostra forma, se siete pere, mele, clessidra o rettangoli. Veniamo ai marziani. Qui le tipologie sono poche, direi, sostanzialmente due, insomma. sono sostanzialmente due, cioè abbiamo cosiddetti uomini di pancia, cioè delle mele al maschile, quindi dove il tessuto adiposo è ancora lui, che si distribuisce in maniera diversa, e soprattutto a livello addominale, ma diciamo così partendo proprio dall'imboccatura dello stomaco fino verso il basso, o piuttosto che ci sono i cosiddetti uomini con le maniglie dell'amore, cioè dove questo tessuto adiposo è più localizzato proprio nella parte addominale, ma anche sui fianchi e sulla parte, diciamo così, di schiena. Sono un po' meno diversi dalle donne tra di loro, ma qualche differenza c'è. Essere benessere però parla ai marziani e alle venusiane e cerca di trovare per loro strategie e consigli per stare bene. Quindi oggi parliamo di attività fisica. Obiettivo: scegliere l'attività più adatta alle nostre caratteristiche. Movimento di genere, diciamo così, professoressa Lucini, perché potremmo dire anche un movimento di genere, anche se dobbiamo tenere conto che i principi fondamentali sono un pochettino gli stessi, ma anche di un'altra differenza importante che c'è tra venusiane e marziani, ed è proprio la capacità di esercizio. Se noi andiamo a fare anche, ci sono degli esami particolarissimi che ci misurano un po' lo stato di allenamento, sì. E si vede che nell'uomo la capacità di esercizio massimale è maggiore che nella donna, e questo può implicare tutta una serie di differenze. Ovvio che questo è nei gruppi, poi ci possono nel singolo caso può essere un pochettino di tutto, però ci possono essere delle differenze. Quindi, se volete, la professoressa Lucini vi prescriverà, come proprio se fosse un farmaco a cui sono stati riconosciuti numerosi effetti anche collaterali benefici, come una sorta di posologia. Quindi, quale attività fisica, per quanto tempo, a quale intensità? Professoressa, mi sto allargando troppo. Cercheremo. No, non si sta allargando per niente, nel senso che quando si parla di attività fisica, penso che il problema più grande sia quello di passare dalle cose generiche, vai a farti una camminata, vai a fare un po' di ginnastica, a un qualche cosa di chiaro e concreto che serve per le nostre persone. Ormai si parla di esercizio fisico come una terapia, come un farmaco, ma questo significa due cose. La prima è che l'esercizio fisico fa bene, sì. La seconda è che l'esercizio fisico però va usato in maniera corretta, perché altrimenti potrebbe o non farci raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi, o addirittura arrivare ad essere dannoso o pericoloso. La seconda cosa è che quindi, quando vogliamo prescriverlo, dobbiamo guardare tutta una serie di cose che magari scopriremo insieme più tardi. Professoressa Lucini, premettiamo ed obbligo che il movimento è indicato a tutti, agli uomini e alle donne, ma può avere effetti diversi. Partiamo ad esempio dalla corsa. Allora, la corsa, sicuramente la corsa è un qualcosa di importante, è un qualcosa di molto difficile, è uno degli esercizi più pesanti che noi possiamo fare, ok? Quindi innanzitutto dobbiamo essere certi che correre per noi va bene, partiamo dagli effetti collaterali. Se io ho una donna, ad esempio, che ha un problema di osteoporosi, perché magari è un pochettino più avanti negli anni, se va a correre deve stare particolarmente attenta, ad esempio, indossare delle scarpe adatte in maniera tale che il picchiare sul terreno sia meno traumatico per le ossa e per la colonna. Questo vale per tutti, anche per gli uomini, ma per le donne con questa caratteristica un pochettino di più. Deve stare attenta ad avere un'intensità magari non troppo elevata, deve stare attenta a non cascare, perché potrebbe creare tutta una serie di problemi. Se invece è una donna che non ha problematiche di osteoporosi, non ha problematiche cardiologiche, e questo vale anche per gli uomini, e in questo caso ci vorrebbe un ok da parte del medico prima di arrivare a delle intensità, cominciamo a introdurre parole un po' tecniche, che vuol dire la fatica elevata da fare, ma in ogni caso se non abbiamo questi problemi, il correre è sicuramente una cosa importante. Perché? Perché ci fa bruciare tante calorie. Quindi se ho una signora a mela piuttosto che a pera, che tra i suoi obiettivi, oltre a quello di fare attività fisica per stare meglio, c'è anche quello per dimagrire, indubbiamente la corsa fatta con le giuste caratteristiche, con la giusta durata, può essere un buono strumento. Mentre per gli uomini, uomini e corsa è un binomio che va bene, sempre con l'attenzione che abbiamo detto prima, un ok da parte del medico per verificare che non ci siano, nel caso dell'uomo, soprattutto problematiche di tipo cardiovascolare. Se noi abbiamo un uomo che magari presenta anche altri fattori di rischio, è in sovrappeso, magari fuma, ha il colesterolo alto, ha la pressione un pochettino alta, allora prima di mettersi a correre seriamente, un'occhiatina dal medico che fa una serie di esami. Valutazione generale, ci piace. Ci vuole. Bici, okay? Per poi uomini? Però, un uomo può tranquillamente, come una donna, tranquillamente certo. correre. Bici? Ecco. Sicuramente la bici, poi la bici ha due versioni, ha la bici quella vera, cioè vado in giro per il mondo e pedalo, e ha la cyclette, che è un'ottima cosa quando il clima ad esempio non ce lo consente o quando non si può andare in giro. Comunque per la bici valgono ancora in maniera grossolana le indicazioni che abbiamo visto prima, cioè la bici è un'attività come la corsa di tipo aerobico, sì. che io posso fare a varie intensità. Quindi la passeggiata in bicicletta va bene per tutti, va bene per uomini, va bene per donne. Vado sulla bicicletta invece in maniera più intensa, cioè faccio molta più fatica, vado a farmi delle salite importanti o cose di questo tipo, allora qui andiamo a dare un'occhiata. Differenza tra uomo e donna? Il tipo di bicicletta in base alla forma che la persona ha. Le donne sono più piccoline, quindi attenzione a se andate a fare un giro in bici, fate in modo che la bici che voi state guidando sia adatta alla vostra struttura, altrimenti non riesco a mettere i piedi per terra, mi posso fare male piuttosto che faccio più fatica. Lo stesso vale per l'uomo, che sia una bicicletta con la taglia giusta. L'altra attenzione andando in bicicletta è la schiena. Sì. Quindi mal di schiena, la bicicletta ti obbliga a stare in una determinata posizione. Se poi è una bicicletta, diciamo così, da città, quindi non è particolarmente molleggiata, possiamo usare sì. questo termine, e io la utilizzo magari su un campo accidentato, diventa traumatica per la schiena. Quindi se abbiamo problematiche di questo tipo dobbiamo stare attenti. Quindi bici adatta se voglio andare in un campo sì. e poi non ho problemi e posso andare. Andiamo a Cosenza, ci aspetta Claudia. Claudia, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Claudia. Allora, io praticamente per quanto riguarda, penso che la mia forma sia rettangolo, poco sedere, pochi fianchi sotto. Qui. E qui insomma, sa che Claudia non siamo mai contente, ma lei fa attività fisica, Claudia? No, perché ho avuto un intervento alla colonna vertebrale e quindi non posso fare tanta attività fisica. Ecco, quale attività fisica può fare, professoressa Lucini? Due sono gli aspetti. Sicuramente un'attività che va a rinforzare i muscoli della colonna, quindi della regione lombare, della schiena, quindi una ginnastica mirata, degli esercizi tipo di forza, fare delle flessioni piuttosto che gli addominali, piuttosto che cose di questo genere, mirate, possono essere sicuramente importanti per rinforzare quella parte muscolare che, diciamo così, è stata interessata dall'intervento e che deve proteggere una parte di colonna che è stata operata. Dopodiché, se io vado invece a pensare a un esercizio fisico aerobico, aerobico vuol dire che mi muove tutto il corpo, camminare, correre, nuotare, eccetera, eccetera, questo è altrettanto importante a patto che non mi vada a caricare sulla colonna. Il nuoto è l'ideale in questi casi, è perfetto, perché non è traumatico, mi muove tutti i muscoli del corpo, in particolare quelli della regione lombare. Viceversa sono da evitare quelle attività particolarmente traumatiche sulla colonna, correre, fare dei salti o cose di questo genere. Per chi ha la forma del cono gelato capovolto, stia attenta professoressa Lucini, vedo che Filippa Oreggi dice come può essere, prendi un cono, al contrario, ovvero si dimagrisce partendo dall'alto ma si recupera sempre partendo dal basso. Questo ci scrive Rosa. Questa è proprio bella ed è una delle cose più serie che noi dobbiamo affrontare ogni qualvolta pensiamo di perdere il peso. Molto spesso quando si fanno delle diete non particolarmente equilibrate si finisce col perdere tessuto adiposo o soprattutto massa muscolare in quei punti in cui non si dovrebbe. Viceversa, un ingrassamento veloce fa aumentare sulla parte addominale oppure sulle gambe. L'attività fisica qui è fondamentale, perché quando io faccio un percorso di alimentazione per perdere peso, uno, lo devo fare in maniera tale che sia oculato, supervisionato da un medico, in modo tale che non venga persa massa muscolare. Due, ci aggiungo un'attività fisica che mi aiuta a mantenere il muscolo e a perdere la parte magari di tessuto adiposo e di mantenere la massa muscolare. Qual è? Sempre la combinazione di attività tipo forza, quindi ginnastica, quindi gli addominali, quindi i dorsali, quindi alcune macchine, associata a un'attività aerobica, la bicicletta, il nuoto, la camminata a passo veloce, la corsa, la cyclette o cose di questo genere. Salviamoci la pelle, che bello brutta è quella lì, prendiamo la unica, salviamoci la pelle. E sì, noi vogliamo salvare la pelle del Marziani e la pelle delle Venusiane, ci aiuta la nostra derma amica, la dottoressa Riccarda Serri, presidente di Skineco. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Siamo diversi anche di pelle. Ma certamente, siamo diversi perché tutti pensano che la pelle maschile sia più resistente, sia più forte, sia più solida, eccetera. Ma non è esattamente così, perché il maschio, radendosi ogni giorno, effettua un'azione praticamente di peeling meccanico tutti i giorni. Per cui questo può rendere la sua pelle ancora più sensibile. Certamente la pelle dell'uomo ha più ghiandole sebacee. Le ghiandole sebacee sono quelle che producono il sebo, l'olio della pelle. Ha dei follicoli pilosebacei, cioè dei pori più grossi. Ha uno strato corneo, che è l'ultimo strato della nostra epidermide, praticamente il guscio che ci riveste, mediamente del 20%. Spesso ha più fibre collagene e più fibre elastiche nel derma, con ogni probabilità per lo stimolo degli ormoni androgeni. Ha e un questo, pH dottoressa, mediamente più alto, e questo porta effettivamente a una pelle che, diciamo, invecchia sempre, invecchia meno. Vede. Però è una pelle esente. Pensiamo solamente a tutte le follicoliti e pseudofolliculiti barbe, pensiamo, lo so io perché so quanti maschi si lamentano di questo problema, cioè di queste specie di follicoliti che vengono sul collo dopo aver fatto la barba e che sono molto frequentemente dovute al pelo che esce ma non ce la fa uscire del tutto e rientra. E a questi marziani con il pelo che non ce la fa uscire che cosa diciamo? Gli diciamo di usare delle sostanze in grado un po' di sciogliere questa cheratina troppo spessa, come dell'acido, ad esempio, salicilico, dell'acido salicilico, una lozione a base di acido salicilico messa 2 o 3 sere alla settimana può essere molto utile, ma dopo la barba rigorosamente sostanze lenitive. Ecco, questo è molto importante, cioè la pelle del maschio può, io l'ho notato facendo i peeling, i maschi sopportano meno i peeling delle donne. Proprio perché tendono a arrossarsi di più, forse per questa azione quotidiana di peeling effettuata dal farsi i maschi, la barba. I maschi li abbiamo sistemati, abbiamo sottolineato tutti i vantaggi che, e le caratteristiche positive della loro pelle che invecchia più tardi e si segna meno rispetto a quelle delle donne, a cui invece regaliamo un consiglio molto molto particolare per mantenere la pelle giovane. È vero che ci sono diversi tipi di pelle, ma dottoressa Serri, la nostra derma amica, le amiche di Essere Benessere, che cosa vuole consigliare oggi? Io posso consigliare di non temere mai troppo il sole, sottolineo troppo, perché il sole è un nostro amico che ci aiuta a produrre la vitamina D, utile non solo alle ossa, ma utile anche a tutto l'organismo, al sistema immunitario, ma di essere amici del sole del mattino presto, fino alle 10, 10:30 e del tardo pomeriggio. Inoltre è molto importante per mantenere una bella pelle, le donne hanno la pelle più carezzevole, più morbida, e questo è il bello della pelle delle donne, ma per mantenerla così morbida, carezzevole, idratata, è opportuno sia mangiare bene, sia un basico skin care, lavarla bene mattino e sera, idratarla con un prodotto adatto al proprio tipo di pelle, non sempre di più è meglio, certe volte meno è meglio, meno è bene. Grazie alla dottoressa Serri per essere stata con noi, buona giornata alla nostra Grazie derma Grazie mille. Amica. Ancora uno, coraggio, l'ultimo. Bene, così, forza, abbiamo finito. Alza. Oh, che fatica. Molto bene. Grazie per l'allenamento. Questo non era l'allenamento. Non era l'allenamento? Era il preriscaldamento, che precede il riscaldamento, al quale segue il preallenamento, che prepara all'allenamento e termineremo con il post-allenamento. Per cominciare lavoreremo sui bicipiti. Sui bicipiti, d'accordo. Sì, allora per il preriscaldamento uso manubri da 25 kg, ma siccome tu non sei allenato iniziamo con quelli da 5. Senti Darrell, non farmi trattamenti particolari. Sei abituato a 25 kg, anch'io mi eserciterò con quelli. Anzi, voglio provare con 30 kg. Uomini e donne marziani e venusiani con un'esigenza comune, muoversi, ma con un'avvertenza importante, scegliere bene l'attività giusta nei tempi e nei modi e con la giusta intensità. Ci aiuta la professoressa Daniela Lucini e in linea con noi abbiamo Michela dalla provincia di Padova, Paola da Modena e Roberto da Milano. Buongiorno Michela. Buongiorno. Sono Michela, chiamo dalla provincia di Padova, ho 40 anni e vorrei domandare alla dottoressa se sto facendo l'attività fisica che va bene per la mia problematica, nel senso che vado due volte alla settimana a GAG, cioè un'attività fisica per le gambe, perché dopo una gravidanza e un po' anche con l'avanzamento degli anni, insomma, visto che ho 40 anni, ho ingrossato abbastanza cosce, polpacci, diciamo avevo un fisico di cui ero estremamente fiera e adesso non è più tale, ho aumentato una taglia di pantaloni e quindi faccio GAG due volte alla settimana, volevo sapere se era l'attività giusta per non dico ritornare agli splendori della gioventù, ma insomma per Michela parla gli splendori della gioventù come se avesse 97 anni, professoressa Lucini. Esatto, volevo dire la stessa cosa. Allora, sicuramente questo tipo di attività per il problema che lei stava raccontando va bene, è un buon inizio. Dobbiamo, secondo me, se noi vogliamo anche non solo cercare di rinforzare un pochettino di più la massa muscolare nella regione delle gambe e degli addominali, coscia addominale, che è un po' quello che lei sta facendo col suo tipo di ginnastica, che va benissimo, ma dovremmo anche aggiungere un pochettino di attività aerobica per muovere tutto l'organismo e per cercare di bruciare un pochettino più di calorie. E quindi asciugare, mi scusi, anche un po' le gambe, perché noi facciamo attività fisica perché diciamo voglio dimagrire, poi i muscoli crescono e la gamba sembra è più tonica, ma rimane un po', vero? Nicoletta, mi sto rubando il lavoro, nel senso che è un ottimo commento quello che ha fatto, perché questo tipo di ginnastiche rinforzano molto la parte muscolare e questo va bene. Dobbiamo stare attenti che non diventi troppo, perché altrimenti il muscolo si vede molto molto di più. Viceversa, se viene aggiunta un'attività che muove un pochettino tutti i muscoli, che allena di più anche la parte cardiopolmonare e ci fa bruciare magari qualche chilocaloria in più, le cose possono sicuramente migliorare. Quindi in questo vuol per dire Michela, sì, stare tranquilla. Certo, una taglietta va e viene. Essere e benessere. Paola da Modena, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno alla professoressa. Allora, io volevo chiedere una cosa. Io sono alta 1,70 e ho sempre pesato 60 kg, senza fare attività sportiva perché, ahimè, sono molto pigra, ho sempre mangiato molti dolci, nonostante questo non sono mai aumentata. Tre anni fa ho avuto un bimbo, ho messo su la bellezza di 9-10 kg, ho aumentato due taglie, dalla 44 alla 48. E volevo chiedere, per cominciare a calare lentamente, quindi senza avere la pretesa in due mesi di ridurre chissà che, capire un attimo come che tipo di attività fare, insomma, non so, bici, camminate, nuoto, corse. Soprattutto scegliere qualcosa, Paola, che a lei piaccia, perché questo è un po' il segreto per poi continuare a fare attività fisica. Professoressa Lucini. Un piccolo problema, mi scuso se la interrompo, ho una condropatia femoro-rotulea al ginocchio destro. Quindi chiedo che cosa si potrebbe bene, fare. Così mettiamo in difficoltà la professoressa Lucini, la cosa mi piace molto. Perché ha detto che le fa male il ginocchio destro? Sì. Allora, innanzitutto, se il nostro obiettivo è quello di incominciare a perdere peso e poi di stare un pochettino meglio, il lavoro è sempre doppio, alimentazione ed attività fisica insieme, ok? Sì. Perché per dimagrire soltanto con l'attività fisica bisogna farne veramente tanta e soprattutto ad intensità particolarmente elevata. Quindi sicuramente incominciare a regolarizzare l'alimentazione. E poi per quanto riguarda l'attività fisica, allora sicuramente un'attività di tipo aerobico, elenco, sì. camminare a passo veloce, correre, andare in bicicletta, nuotare, eccetera, eccetera. Seconda cosa, scegliere, come diceva Nicoletta, un qualcosa che a lei piace e che sia realistico nella sua vita. Vado a camminare tutti i giorni, mi faccio la cicletta in casa, un giorno la cicletta, un giorno vado a camminare, un giorno vado a nuotare, ma la cosa importante è la costanza, tutti i giorni devo avere introduciamo un parametro, una durata, un tempo, sì. dobbiamo arrivare al 30 minuti, ma poi sì. possiamo anche fare, se non ce la fa di fila 30 minuti perché è disallenata, un quarto d'ora al mattino, un quarto d'ora al pomeriggio? Sì. Di però attività il nostro dobbiamo puntare a 30, vero? Dobbiamo arrivare almeno a 30, a 30 minuti. E guardate che l'ideale poi magari è quello di avere un momento strutturato di questi 30 minuti. Mi faccio la camminatona, mi faccio la cicletta in caso, vado a nuotare. Ma non dobbiamo buttare via tutto l'altro tempo di quando viviamo, lavoriamo normalmente, le cose banali che pensiamo essere banali, certo. fai le scale a piedi, prendi la metropolitana. Basterebbe quando siamo al cellulare, alzarci camminare. Dalla nostra scrivania, brava. Perché spesso riceviamo anche in ufficio chiamate sul cellulare, alzarci e camminare. E quello è, almeno diventa un momento cogliere salutare. Ogni occasione. Ricordiamoci sempre che il primo step quando una persona è proprio sedentaria è quello di prendere tutte le occasioni possibili e immaginabili per muoversi, per camminare, per fare le scale, per cose di questo tipo. Dopodiché ci mettiamo, dobbiamo arrivare a mezz'ora di attività aerobica, ma a quale fatica? Perché la domanda è, ma a che fatica devo fare quando vado a camminare, a correre? E voglio dimagrire, certo. Per poter dimagrire? Allora, per poter dimagrire senza toccare l'alimentazione devo fare un'attività vigorosa, cioè devo sudare tanto per intenderci. Se però io seguo una buona alimentazione, allora quella che viene detta un'attività moderata, che vuol dire aumento ad esempio la mia respirazione, ma mentre sto camminando riesco a parlare con la persona che ho di fianco. Sì. Non riesco a cantare, però riesco a parlare con chi ho di fianco, questo è il modo per dire banale, di avere un'intensità, una fatica di esercizio che è sufficiente. Poi se posso certo. vedere un medico e andrà a calcolarla bene, ancora meglio. Ma questo è il modo più facile che tutti noi possiamo fare. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi, sottopongo un problema tipo un po' diverso, sono un marziano di 53 anni, un ipersportivo che si allena mediamente 4-5 volte alla settimana sì. e che è da novembre è stato diagnosticato un cancro e sto facendo la chemioterapia. Ahimè sì. i medici dicono che un eccessivo allenamento fa male, a talvolta impongono riposo assoluto, ma io invece non mollo e continuo ad allenarmi. Volevo chiedere un parere appunto della professoressa. Bene, Roberto, sono contenta perché la professoressa Lucini all'Humanitas, vero professoressa, tratta sì, sì. proprio pazienti, donne, uomini, anche in chemioterapia, per suggerire a loro l'attività giusta e corretta. Allora, ci sono già dati in letteratura scientifica che fanno vedere che anche durante l'esecuzione di una terapia importante come una chemioterapia, fare un pochino di attività fisica non solo si può, ma fa bene. Attenzione però alla quanta attività fisica e alla intensità. Sicuramente nel momento in cui una persona sta facendo una terapia come una chemio, l'organismo è impegnato, sta facendo una grande cosa, una grande battaglia, è uno stress fisico importante, quindi non dobbiamo esagerare con l'attività fisica. Abbiamo detto all'inizio, l'esercizio fisico è un farmaco, va usato bene a dosaggio giusto, quindi durante la chemio restare completamente sedentari, a meno che una persona proprio non ce la certo. faccia, non è l'ideale. Mentre quindi Roberto ha il problema, Roberto ha il problema opposto. I medici gli dicono rallenta. Quindi mi sembra che dalla sua risposta movimento sì, però calibrato e misurato, perché durante la chemio il fisico sta già combattendo una battaglia importante. Roberto avrà finito la sua parte di chemioterapia, allora sarà un discorso completamente diverso. Continuiamo con le differenze tra uomini e donne, marziani e venusiane. Ci sono alimenti ed erbe amiche delle donne, altri invece degli uomini. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Ciro Vestita, medico dietologo dell'Università di Pisa. Buongiorno, dottor Vestita. Buongiorno a voi, eccomi. Iniziamo dal gentil sesso, le donne su quali alimenti o erbe possono puntare? Beh, due alimenti che sono entrambi ricchi di fitoestrogeni. Primo, i cereali. Nella cuticola dell'orzo, dell'avena ci sono fitoestrogeni utilissimi per la donna, e la salvia, che è altrettanto ricca. Sono entrambi piante medicali ed alimenti che fanno veramente bene, semplicemente perché fanno star meglio sia dal punto di vista energetico che di salute in generale a donna. Per quanto riguarda gli uomini, invece, Nicoletta, due bellissime notizie, sono due lavori recentissimi. Il primo è quello comparso sull'American Journal of Impotence, che dice questo: l'uomo un po' stanco, un po' affaticato, che ha problemi nel fare l'amore, può non prendere Viagra se prende il ginseng in maniera cospicua, costante e continua. Sono lavori fatti su tante persone, quindi di estrema serietà, e quindi diamo questa notizia perché ginseng è qualcosa di favoloso. Invece, per quanto riguarda... Ci saranno molte amiche che andranno a comprare il ginseng, lo faranno a trovare. A tonnellate, non li butti giù, che c'è subito Filippa Oreggi di là che mi dice, piano, però un po' di ginseng, no, dottor Vestita? Non farebbe male. Quindi... Poi la ricerca ha scoperto di un medico argentino che ha isolato nella cipolla di Tropea, quindi un alimento tutto italiano mediterraneo, l'ossido nitroso, che è il principio attivo del Viagra. In soldoni, se mangi bene, se mangi in maniera corretta, se fai una buona ginnastica, se respiri bene, probabilmente anche l'attività sessuale si energizza e stai meglio. E questa è la scoperta dell'acqua calda, ma è così, diciamolo. No, però è utile, è sempre utile ricordarlo. Grazie al dottor Vestita. Ricordate, uomini, ginseng e cipolla rossa di Tropea, vero? Possiamo lasciarli così. Grazie Nicoletta. Dottor Vestita, un abbraccio, grazie. L'attività fisica, dottoressa, professoressa Lucini, ha tante conseguenze. Una di queste è anche la riduzione del rischio di tumore. Prima abbiamo sottolineato appunto la possibilità di fare attività fisica durante un trattamento chemioterapico. Lei tra l'altro si occupa proprio anche di questo in Humanitas, ma le ricerche hanno dimostrato che fare attività fisica con regolarità, e quindi in questo vuol dire almeno 3 volte la settimana, riduce il rischio di tumore al seno, al colon e alla prostata. In questi tumori la diagnosi precoce, cioè il tempo dei controlli e della scoperta delle lesioni molto piccole, lo sappiamo, è fondamentale. Adesso sappiamo che anche il tempo dell'attività fisica può salvare tante vite. E a proposito di tumore alla prostata, il tempo ha a che fare anche con le nuove cure. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Giovanna Luini. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Medico grazie. E comunicatore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia. Muoversi fa bene, è un preventivo anche nei confronti di alcuni tumori, e si può ritornare anche a fare attività fisica. Ma riguardo al tumore della prostata e al tempo, c'è una novità che vogliamo segnalare ai nostri ascoltatori. Sì, esatto, si chiama Give Me Five perché è una radioterapia che si svolge in soli 5 giorni, quindi bastano 5 sedute di radioterapia per curare radicalmente il tumore della prostata. Questo consente un tempo molto rapido di trattamento, effetti collaterali quasi nulli e un ritorno a quell'attività fisica che 3 volte a settimana ha dimostrato di ridurre il rischio di recidiva di malattia. Quindi Give Me Five è un modo per dare alla gente una buona qualità di vita, una cura per il tumore della prostata senza le 8 settimane che prima erano di radioterapia. Grazie alla dottoressa Luini che ci ha aggiornato su questo nuovo trattamento che abbrevia i tempi e quindi permette al paziente di ritornare presto ad una vita piena, normale, con la sua bella attività fisica. Dottoressa Luini, grazie, e noi andiamo a Padova perché c'è Andrea. Buongiorno Andrea, benvenuto. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Abbiamo 30 secondi, vada che la professoressa così le risponde. Vada Andrea.